Ragazzi e ragazze carissimi, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, dottor Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovane. Se ricordate la volta scorsa, con l'aiuto del Signore siamo riusciti a terminare il quinto comandamento e oggi vedremo di iniziare un nuovo capitolo, appunto riguardante il sesto comandamento. Come vi accennavo la volta scorsa, di questo comandamento abbiamo già avuto modo di parlare in qualche modo in altre conversazioni fatte sempre su questa frequenza e su questa radio. Quindi per chi le ha ascoltate forse sarà qualche ripetizione, però è importante focalizzare bene in questa materia, perché questa materia, la materia del sesto e del nono comandamento, purtroppo è di scottantissima attualità. Il motivo è molto semplice, perché dopo lo sciaguratissimo 1968 e la cosiddetta rivoluzione sessuale, praticamente questo comandamento, il sesto, che tutti più o meno conoscono, non commettere atti impuri, è stato letteralmente messo sotto i piedi, non soltanto dalla quasi totalità degli uomini, il che insomma sarebbe grave, ma per certi aspetti comprensibile, ma ahimè da molti cristiani cattolici compresi, che praticamente ritengono anche di poter pacificare la propria coscienza grazie al beneplacito dell'odierna cultura contemporanea, che sarà definita da vari autori, senza neanche bisogno di troppa fantasia, nudista, iper erotizzata e pansessualista, termini che significa iper erotizzata, vuol dire che ha fatto dell'eros, cioè dell'amore passionale e pulsionale, un qualcosa di assoluto, quindi di spropositatamente grande, sembra che non esista altro nella vita. E pansessualista sembra che tutto, paspasaban in greco significa tutto, sia in qualche modo da ricondurre all'alveo sessuale. Queste sono eredità di un certo Sigmund Freud, che penso che sappiate, chi ha studiato un pochino tra di voi, che riconduceva praticamente tutti i conflitti interiori, le nevrosi e le varie forme di psicopatia mentale a conflitti non risolti di stampo o di natura sessuale. Quindi ci troviamo dinanzi a questa grande sfaldatura, quantomeno sul piano pratico, di ciò che ha costituito il cuore della morale cattolica, perché su questo punto, se uno legge le testimonianze, fin dai primissimi albori della diffusione del cristianesimo, su questo punto, diciamo, il tasso di, come dire, di fedeltà dei cattolici è stato sempre molto molto grande. La purezza è stato sempre un valore considerato essenziale e fondamentale. E addirittura, io ricordo benissimo, al liceo ho studiato la storia su un libro di storia non equivoco, insomma, che era di chiara sinistra, penso che qualcuno conosca questo nome, Rosario Villari. E non dimenticherò mai, a quei tempi ero un po' più ingenuotto rispetto adesso, cioè avevo 14 anni, no, cioè avevo 15-16 anni nel primo liceo, la mia grande sorpresa nell'andare a vedere come questo signore, appunto Rosario Villari, annoverava fra le cause della caduta dell'impero romano appunto il cristianesimo. E quando andava a spiegare in che senso il cristianesimo fosse da annoverarsi tra le cause della caduta dell'impero romano, a cui si andava ad aggiungere, se non ricordo male, le invasioni barbariche da un lato e poi la corruzione, diciamo, intra-romana, diciamo così, insomma, la corruzione della gente e anche dell'imperatore, insomma, che si verificò all'interno di Roma. Quando andava a spiegare in che senso il cristianesimo avesse distrutto, eroso più che distrutto dal di dentro, la cultura romana, spiegava proprio che tra le varie idee antipagane per antonomasia, cioè fattori come dire, sobillatori da un punto di vista sociale, c'era appunto questa idea della castità e l'idea poi della verginità, che sono assolutamente strane al mondo della cultura pagana. Io ricordo benissimo quando visitai per la prima volta gli scavi della città mia omonima, Pompei, e se uno va lì e gira nei posti, dentro le domus, sono perfettamente conservate, spero che lo siano tuttora nonostante come dire, tutti gli smottamenti che ogni tanto ci sono, c'erano dei disegni quanto mai espliciti, abbastanza palesi ed evidenti, quindi il mondo pagano era un mondo caratterizzato da questa realtà sotto tutti i punti di vista. Forse non tutti sanno, dico queste cose a modo di introduzione, che molte ragazzine e molti anche maschietti sono stati gravemente provati dai pagani su questo tema. Se uno si legge gli Atti dei Martiri o le storie insomma edificanti di tante giovani martiri, vedrà come questo era un punto su cui i pagani tormentavano, insistevano. C'erano delle forme di martirio consistenti nel mandare poverine nude, le bambine, nelle arene romane, e prima fargli fare la parodia del peccato originario, no? Quindi venivano spogliate, legate nude a un palo, dopo uscivano i serpenti che praticamente gli andavano a strisciare addosso, appunto facendo la parodia del peccato originario, e dopo che si erano divertiti un pochino così, se il serpente non le strangolava o non le mordeva, finita l'esibizione andavano come tutti gli altri a diventare pasto per i leoni. Quindi non pensiamo che sia, quindi io vivo nella città di Latina, ecco, è la città della martire della purezza, Santa Maria Goretti, ho fatto tante catechesi su questo tema, bambina di neanche 12 anni, per evitare una violenza sessuale e si è fatto uccidere con 14 punte ruolate e si è fatto uccidere dicendo fortemente non si fa, è peccato, vai all'inferno. Ecco, quindi questo è il panorama. Non se continuassi diciamo con le citazioni penso che non la finiremo mai, a modo di semplice overture. L'ultima che possiamo fare è quella di Fatima. Ieri è stata la grande festa della Madonna di Fatima, che spero tutti abbiate ben festeggiato. Ebbene, la festa della Madonna di Fatima è la festa di un messaggio mariano in cui tre cose importanti vengono dette su questa materia. Numero uno, che c'è un sacco di gente che va all'inferno e che il peccato che dà più clienti all'inferno, questo lo vedremo subito, è il peccato della carne, questo lo dice la Madonna. Adesso lo sentiremo subito come introduzione a questi comandamenti, a questo comandamento. E la seconda cosa è che la Madonna stessa disse a Suor Lucia che sarebbero arrivate delle mode invereconde che avrebbero oltremodo offeso Nostro Signore, e dentro questo brutto sistema purtroppo ci siamo fino al collo. Io, cioè, ragazzi, ho già cominciato a vedere, siamo al 4-5 di maggio, ragazzine e neanche troppo ragazzine, perché a volte, cioè, anche quelle un pochino più adulte non è che si fanno tante di legno, già in canottiera e a panza de fori, come si dice, dico, al 5 di maggio. Okay, a agosto che cosa facciamo, quando veramente qui dalle mie parti agosto si proprio boccheggia in maniera clamorosa, che facciamo? Andremo in giro a nudo integrale, insomma, no? Comunque, il terzo problema, cioè il terzo aspetto dell'apparizione di Fatima, è che la Madonna nominò durante la prima apparizione a Suor Lucia e chiedeva informazioni circa la sorte di alcune sue amiche che erano morte, che fine avesse fatto una che si chiamava Amelia. mi ricordo benissimo, l'ho raccontato tante volte, forse l'avete già risentita, la prima volta che lessi questo messaggio, i momenti non ci dormono notte, perché Amelia dice, ma la mia amica Amelia che fine ha fatto? Dice, resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Dico, osteria, in purgatorio fino alla fine del mondo, e che ha fatto questa qui? Mi ricordo che dagli che dagli, insomma, si sapeva che, avesse fatto sta Amelia, bisogna ringraziare, lo faccio pubblicamente, padre Serafino Maria Lanzetta, che molti di voi sicuramente conosceranno, e un bel giorno sul settimanale di Padre Pio scrisse un bellissimo articolo su Fatima e spiegò chi era e che cosa aveva fatto sta Amelia. Questa Amelia era una ragazza, amica di Suor Lucia, che aveva subito un tentativo di violenza sessuale. Ma a differenza di Santa Maria Goretti, anziché difendersi anche al rischio della vita, vedendo le brutte, cioè vedendo che insomma il suo aggressore era risoluto, che lei avesse ceduto oppure l'avrebbe forse anche uccisa, cedette. Quindi capite che in particolare, adesso penso che qualcuno che mi ascolta si è già zompato dalla sedia, ci zompai anch'io, c'è una spiegazione per questo, e c'è già subito un messaggio abbastanza allarmante, ecco perché la spiegazione del catechismo è questa, che i peccati mortali per commetterci hanno piena avvertenza, deliberato consenso e materia grave, ecco, chiaramente quando una persona non fa questa cosa volontariamente, ma la subisce per la volontà di un altro, non è capace di combattere per questo, come dice la lettera degli ebrei, anche fino al sangue, nella lotta contro il peccato, perché se noi dobbiamo pregare col Padre nostro, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, cioè non tiene lontano da noi le prove, ma se arriva la prova, non ci deve stupire questo, no? Cioè, un cristiano che si vedeva arrivare i legionari e veniva portato nell'arena, non è che aveva scelta, dice vabbè, questo è un sacrificio troppo grande, dice che cosa volete, che rinnego Gesù e che faccia un sacrificio di dei pagani, vabbè facciamolo, tanto il Signore capirà, posso farmi sbranare vivo da un leone? No, fratello mio e sorella mia, se ti capita una cosa del genere, l'unica cosa da fare, certamente c'è, l'alternativa è tra eroismo e peccato, quindi, ma, perché non è che se tu non compi l'atto eroico, fai peccato. Così era nel caso di questa, quindi certamente non può andare all'inferno perché poverina ha subito una violenza, però va in purgatorio. Il purgatorio fino alla fine del mondo, cioè questo fa comprendere quanto è grave la materia di cui stiamo parlando, ecco. E così con questo possiamo subito andare a passare immediatamente all'introduzione, perché il punto fondamentale di questo comandamento è questo. È l'estrema gravità di questa materia, cioè il sesto comandamento, non è il primo. Vi ricordo i primissimi, il peccato, se uno vi dovesse chiedere qual è il peccato in assoluto più grande che si possa commettere, se avete seguito la catechesi, spero che l'avete fatto bene, la risposta deve essere immediata, il peccato più grande che si possa commettere è fare la comunione senza stare in grazia di Dio, punto, non c'è altro peccato più grande di questo. Però, qual è il problema di questo comandamento? È che qualunque atto, come andremo a vedere, che violi la virtù della santa purezza, per qualunque motivo tu lo faccia, in qualunque forma, in qualunque caso, è sempre grave. Cioè, c'era un antico adagio della teologia morale, che ve lo dico in latino e poi ve lo traduco in italiano, che suonava così, in re venerea, non datur parvitas materie. Cioè, in tema di piaceri venerei, argomento del sesto comandamento, non esiste materia lieve, e lo vedremo anche in alcuni casi affrontati con decreto da sommi pontefici, che oggi sicuramente faranno sobbalzare dalla sedia più di qualcuno, però non si può fare niente, ecco perché oltre che in tema del venero non dato il parvitas materie, cioè l'affrontare oggi questo comandamento deve essere fatto alla luce di un, come dire, di una precisazione previa, cioè che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, quindi il fatto che la nostra cultura oggi sia diventata degradata sotto questo punto di vista, iper erotizzata e pansessualista, non comporta, come dire, uno spostamento, diciamo così, in giù dell'asse di attenzione. Vi faccio un esempio: siccome oggi vanno in giro a fare il gay pride, quindi vorrebbero come dire, far passare come normale i pubblici scandali, allora chiudiamo un occhio, che ne so, sugli atti impuri che commettono due fidanzatini, perché ci stanno problemi ben più gravi oggi. Allora, è evidente che il primo problema sia molto più grave di due fidanzatine che fanno gli atti impuri, ma non è che siccome oggi ci sono questi problemi così grandi, quelli più piccoli dicono, vabbè, spostiamo la soglia di attenzione, quindi dal momento che la società è degradata, come dire, si trascina dietro la soglia di tolleranza, quindi mentre prima ci si poteva danzare, non ci si poteva manco sfiorare con mezzo dito, oggi diciamo che prima che uno commetta un peccato grave ce ne vuole molto di più. Assolutamente no, perché Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi e sempre, troviamo scritto nella lettera agli ebrei, e la legge di Dio su questa materia non si è mossa e mai si muoverà. È inutile che fanno le manifestazioni scandalose. A proposito, oggi ho avuto una bella notizia, ogni tanto arriva, che è arrivata una bella denuncia penale per ben 4 reati, articoli 403, 404 e 527 del codice penale, per quell'imbecille, e lo dico con tutto il cuore, e non mi andrò a confessare per quello che ho detto, che il 1° di maggio, chi conosce questa cosa capisce, chi non la conosce meglio questa la risparmia, ha osato fare sul Sagrato di San Giovanni in Laterano quella oscena parodia della messa, utilizzando un mezzo contraccettivo, sperando che la giustizia umana, io ci credo poco, insomma, che va sempre a senso unico, possa prendere i debiti provvedimenti, insomma, perché certe cose non possono essere tollerate. Ecco, da noi cattolici, quindi profanare in questo modo la sacralità della messa inneggiando a un comportamento immorale, quale quello di utilizzare certi attrezzi, specialmente quando si è giovani, e non si possono usare neanche quando si è meno giovani, tra l'altro, come vedremo, è fatto molto grave. Quindi, che succede? Che queste nostre attuali disgraziatissime, sciagurate e maledette, se vogliamo, congiunture storico-culturali, rendono solo estremamente difficile una perfetta osservanza del sesto comandamento, ma nulla tolgono la sua cogente immutata e immutabile obbligatorietà. Cioè, oggi ci vogliono persone decise come erano le martiri e i martiri di cui vi ho accennato dei primi secoli, d'accordo? In cui la disponibilità al compromesso su questa materia da 0 a 10 sia 0. Ecco. E tanto più il mondo si è pervertito, quanto più noi dobbiamo essere fermi e coraggiosi nel portare alta questa bandiera, che è stato, vi ripeto, sempre il fiore all'occhiello dei figli di Dio. Non esiste cristianesimo autentico se su questa materia non siamo in linea con quello che Dio vuole. Così è sempre stato il segno distintivo dei figli di Dio. Scusate se ho fatto un prologo abbastanza lungo, l'ho detto e lo ripeto. Allora, riprendendo alcune cose dette dalla Madonna di Fatima, ecco. E io tempo fa lessi, e voi sapete che c'era un santo sacerdote salesiano, e morto in concetto di santità ed esorcista, Don Giuseppe Tomaselli, penso che lo conosciate, si trova questa cosa in giro sulla rete, che pubblicò i responsi, o meglio la conversazione da lui avuta con uno dei luoghi telenti dello sciagurato mondo dell'aldilà sotterraneo, il cui nome si era dato come nome, si era presentato come Melid o Melid, non lo so, che appunto questo reverendo padre interrogò in questo modo, ve lo leggo perché è abbastanza interessante. Tenete presente che ho detto San Giuseppe Tomaselli, non è santo, quindi speriamo presto lo diventi, è già più da più di qualche tempo, insomma, che è morto, non è proprio morto l'altro ieri. E il dialogo era di questo tipo: dice, guarda Melid, più volte ti ho chiesto negli esorcismi qual è il peccato che manda più anime all'inferno? E tu mi hai risposto, non occorre che io te lo dica, tu lo sai. E io ti ho obiettato, secondo me è l'impurità. Dite cosa dice il demonio, vedi che lo sai? Tutti coloro che stanno nel pozzo infernale vi si trovano per l'impurità. Hanno fatto anche altri peccati, ma si sono dannati sempre per questo peccato o anche con esso. Ripeto, hanno fatto anche altri peccati, ma si sono dannati sempre per questo peccato o anche con esso. Vedete che quello che dice il demonio, i peccati che portano più anima all'inferno, quello che dice il demonio, quello che dice la Madonna di Fatima, i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne, è perfettamente confermato da questo esercizio, non c'è bisogno certamente di confermare le parole di Maria Santissima con le parole di Satanasso, insomma, o dei suoi schiavetti, però ecco, diciamo che mettono altra carne sul fuoco, diciamo così, quindi rafforzano quanto già abbiamo imparato. Continua sempre questo schiavetto Melid. Io Melid faccio comprendere a costoro, agli impuri, che le parole del Cristo sono da disprezzare e non faccio riflettere che con l'Altissimo c'è poco da scherzare. Attenzione a questa espressione, con l'Altissimo c'è poco da scherzare. Allora, che significa questo? Significa esattamente quello che abbiamo ascoltato. Cioè, con l'Altissimo c'è poco da scherzare. Ecco, vi ho detto fino alla nausea, ve lo continuerò a ripetere, ragazzi, perché ve lo devo ripetere per forza, perché è qualche cosa di cui ci si va di mezzo il bene e la salvezza della nostra anima. Cioè, ci sono alcune idee che girano del Padre Eterno oggi, cioè l'immagine del Dio Bonaccione, cioè che tanto non fa niente, che lui è misericordioso, che perdona, che sono assolutamente false. Nella tradizione, se voi leggete la storia dei santi, non ci sono mai state queste cose. Io sto rileggendo la biografia del santo curato d'Ars, del Trochu, ci ho pure pubblicato qualcosa su Facebook. Io i capelli non ce l'ho, perché se ce l'avessi mi sarebbero già riaddrizzati tutti quanti. Il santo curato d'Ars era capace di non dare la soluzione a una ragazzina solo perché non è che era andata a ballare, cioè era andata a ballare era meglio che non ti presentare al confessionale del curato d'Ars, ma perché era andata ad assistere, quindi a guardare e ballare. Prendete la biografia del Trochu e leggete, la biografia del Trochu del santo curato d'Ars è il testo più completo e più attendibile per quanto riguarda la vita di questo insuperabile colosso della fede e padrono dei parroci, che è appunto il santo curato d'Ars. Allora, come la vogliamo mettere? Punto interrogativo. Pensate che io faccio il prete, no? Vengo a sentire una cosa di questo genere. Dove voglio andarmi a nascondere? Quali scuse voglio trovare? Punto interrogativo. E lui stava sempre a dire, la sua predicazione era sempre di questo genere, dice, state attenti perché vi dannate l'anima, state attenti perché vi dannate l'anima, state attenti perché vi dannate l'anima. Adesso è possibile che da 50 anni a questa parte l'anima se la danna più nessuno? Cioè, io vorrei, dal momento che siamo in una radio, siamo in una grande famiglia, perché questo sì, la famiglia dei figli di Dio, la famiglia Chiesa è una famiglia. Qui siamo all'interno di una famiglia di famiglie, siamo all'interno della comunità dei nostri cari francescani e francescane dell'Immacolata, quindi c'è le cioè, io non è che voglio, cioè, vorrei che voi capiste quando vi parlo, anche quando dico delle cose scomode, impegnative, ma io so di dirle, che non le dico così a cuor leggero, ma le dico così come io l'ho ricevuta. Avete visto San Paolo quando scrive le sue lettere? Dice, vi ho trasmesso anzitutto quello che io ho ricevuto, perché la fede non ce la possiamo inventare noi. Una delle cose, non la possiamo cambiare noi, io non posso dirvi cose diverse da queste che vi sto dicendo, non lo posso fare. E meno che mai lo posso fare perché sono prete. E quindi il suo compito non è altro che ripetere quello che ha detto Gesù Cristo. E la dottrina di Gesù Cristo, dove la trovi? Ci ho fatto ieri sera un incontro fuori sede. Oggi circola una montagna di errori e di eresie. Come faccio io a accorgermi che una cosa è un errore o un'eresia? C'è un sistema infallibile, ragazzi. quando tu senti una cosa che non è stata detta mai da nessuno, cioè che suona come una novità assoluta, cioè che stravolge o cambia una verità di fede o una norma morale che c'è sempre stata nella Chiesa Cattolica, quella cosa è falsa. Ecco, diciamo, avete sentito tante volte parlare, ragazzi, di tradizione, tradizione, ho detto tante volte, io non sono tradizionalista, così come non lo sono i francescani dell'Immacolata, che ne dica qualcuno, perché essere tradizionalista è un difetto, perché è una forma di fissazione mentale, come tutti gli ismi, in base alla quale una cosa è buona e bella soltanto se è antica, se invece una cosa non è più antica è brutta e da buttare. Sto semplificando, ma è questa l'essenza del tradizionalismo. Allora, se questo fosse vero, capite che sarebbe un disastro, non potremmo neanche stare a fare la trasmissione su Radio Buon Consiglio, perché la radio è un'invenzione moderna, internet è un'invenzione moderna, il telefono è un'invenzione moderna, quindi dobbiamo automaticamente chiamarci fuori tutte tante queste cose perché sono nuove e quindi sono cattive. Ecco, però è vero che, cioè, che cos'è la tradizione? La tradizione sono 2000 anni di storia, storia che è stata segnata da interventi del Magistero della Chiesa, volti appunto a spiegare e attualizzare i precetti di Dio e le verità di fede, e sono stati questi vissuti dai santi e spiegati dai dottori della Chiesa, non dal primo Pinco Pallino del Capita. Allora, se tu sei di fronte ad una dottrina unanime, d'accordo? Cioè, io come ho fatto? Io ho la mentalità giuridica, il santo Claudars fa così, e Padre Pio come faceva? E San Leopoldo Mandic come faceva? E Sant'Alfonso Maria dei Liguori come faceva? E San Francesco di Sal come faceva? Cioè, se tu su una materia ti becchi 5-6 santi fenomeni e grandi dottori che ti dicono la stessa cosa, è ovvio che tu per forza devi, a meno che non vuoi essere matto, devi cedere. Cioè, per quanto questa dottrina mi sembra severa, mi sembra difficile, mi sembra scomoda, così deve essere, perché tutti l'hanno sempre insegnata, non mi posso svegliare io la mattina e dire siccome siamo nel 2013 questa cosa non è più vera, non lo posso fare, capite? Non è che non lo voglio fare, lo vorrei pure fare, mi farebbe comodo pure a me se fosse così, ma non si può, capite? Non si può, nessuno può fare una cosa di questo genere, nessuno. E chiunque osasse fare una cosa di questo genere se la vedrà col Padre Eterno, lo dico pure a lui, e se veramente se lo vedrà col Padre Eterno, non poco. Ecco. Ora sono le 17, facciamo un attimo una piccola pausa per la nostra consueta Ave Maria e poi riprendiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, continuiamo l'introduzione a questo sesto comandamento, concludendo un po' il dialogo un po' sui generis tra Don Giuseppe Tomaselli e questo schiavetto del piano di sotto. Il dialogo continua dopo che abbiamo visto che con l'Altissimo c'è poco da scherzare, quindi noi dobbiamo ricordarlo questo qui, cioè con l'Altissimo non si scherza, è vero che Dio è buono, misericordioso, che ci vuole bene, eccetera eccetera, ma Dio non possiamo prenderlo in giro, né possiamo provocarlo, né possiamo sfidarlo. Non scambiamo mai la bontà e la misericordia di Dio con una sua supposta debolezza o con una sua supposta autorizzazione indebita a peccare. Il permesso di peccare non è stato dato a nessuno. A nessuno. Non è stato dato ieri, non lo dà oggi, non lo darà domani e non lo darà mai. D'accordo? Ecco. Poi piano piano vedremo vari esempi anche biblici di questo discorso. Comunque il dialogo continua. Dice, a te Melid piacciono di più i peccati solitari, privati, che non hanno ripercussioni sugli altri, oppure i peccati che danno scandalo e spingono altri al male? Vi leggo la risposta e poi faccio un piccolo commento anche su questo. Dice, certamente io preferisco gli scandalosi, perché con essi i peccati si moltiplicano, il mondo è pieno di scandali, e perciò io e i miei compagni siamo più vicini agli scandalosi, che sono i nostri migliori aiutanti. Cos'è uno scandalo? Uno scandalo è un peccato pubblico e pubblicamente sbandierato, senza nessun ritegno. Parlavo questi giorni con qualcuno, mi pare sempre nella conferenza di ieri sera, dicendo, allora, ragazzi, per esempio, l'impurità e anche i peccati impuri contro natura, quali sono, senza voler adesso anticipare i tempi, per esempio, gli atti omosessuali, ragazzi, sono sempre stati fatti questi qua, d'accordo? L'omosessualità femminile, penso che sappiate, si chiama nel gergo comune lesbismo, d'accordo? Le donne che gli piacciono le donne si chiamano lesbiche. Questo nome deriva dall'isola di Lesbo. All'isola di Lesbo abitava una poetessa greca che si chiama Saffo, che è vissuta ma molti secoli prima di Cristo. E non è che c'era bisogno che venisse Gesù a condannare l'omosessualità o a parlarne. Tra i filosofi greci sembra vero questo qui, che anche il grande Platone, non dico fosse proprio omosessuale, ma avesse qualche orientamento, quantomeno anche omosessuale. Le fonti sembrano confermare questa cosa. Tra i romani l'omosessualità era diffusissima, ma era sotto bosco, d'accordo? Cioè, nel senso che queste forme, diciamo così, basse e contro natura di soddisfazione degli istinti sono sempre stati, ma dal momento che la coscienza anche di un pagano, e anche pensate che negli ordinamenti civili pagani, ho fatto la tesi di laurea in storia del diritto romano, voi pensate che ci fosse mai posto il problema che si sta ponendo oggi, legalizziamo le unioni gay? Eppure nel diritto romano era perfettamente recepita la grande conquista degli anni 70 che era il divorzio, perché nel diritto romano il matrimonio, il divorzio esisteva. Come mai che non si sono mai chiesti? Perché non gli passava neanche per l'anticamera del cervello, nel senso che tutti sapevano che questo è un fenomeno che c'era, ma per andare a soddisfare di notte in qualche posto nascosto, zitto tu e zitto io. La cosa che oggi è cambiata è questa, che non soltanto io questo lo voglio fare e voglio che nessuno mi dica ma te lo sbatto in faccia, lo ostento come se fosse una cosa buona e pretendo una legge che me lo consacri e me lo renda lecito, a quasi quasi addirittura meritorio. Avete sentito? Le leggi sull'omofobia, cioè di creare una classe di persone protetta. Addirittura, capite sempre bene il senso delle cose che sto dicendo, nessuno vuole fare criminalizzazioni o discriminazioni o avallare atteggiamenti di ironia o di persecuzione nei confronti di questi fratelli e di queste sorelle, d'accordo? Punto, non si tratta di questo, ma capite che bisogno c'è di andare in giro tutti quanti nudi a fare il gay pride, orgoglioso di essere gay e davanti a tutti lo devi sbattere in faccia questa cosa qui? E pretendi anche, come sta succedendo dappertutto, cioè voi, io vi dico queste cose perché dobbiamo imparare a discernere i segni dei tempi, cioè i pagani queste cose non le hanno fatte, se le stiamo facendo noi vuol dire che noi siamo peggio dei pagani, cioè il neopaganesimo di cui qualcuno parla è peggiore del paganesimo antico, lo sapete perché? Perché mentre i pagani, i poverini, non sapevano quello che facevano, anche sull'impurità, perché erano pagani, e quindi poi sono stati evangelizzati e poi si sono convertiti, perché la nostra società cristiana in Italia viene dai romani, e così è stata fino a 50-60 anni fa. A me mia madre mi raccontava, mia madre era di Roma, non era di qualche paesino del sud Italia con 200 abitanti, mia madre mi raccontava che se tu ti azzardavi di arrivare al matrimonio così come non ti aveva fatto papà, era la fine del mondo, non te ne dirà più nessuno poi, negli anni 50, non nel Medioevo, mia madre si è sposata nel 58, buonanima, capite? Quindi questa cultura si era imposta contro la cultura pagana, vincendola. Adesso noi siamo stati vinti, purtroppo, e di brutto, dai nuovi nemici di Dio, e stiamo soccombendo, e la cosa grave, sapete qual è? Che c'è più di qualche cattolico chiaramente ingannato che pensa di dare gloria a Dio di fare una cosa buona, di esercitare la carità e la tolleranza verso questi fratelli, concedendogli di poter fare quello che vogliono. State attenti, qui non si tratta di andare a perseguitare nessuno, ma non ti posso dire bravo dinanzi a una cosa che non va bene agli occhi di Dio, non te lo posso dire. Se la vuoi fare, falla, d'accordo? Cioè, signore, a nessuno dà il permesso di peccare, però gli uomini sono liberi di scegliere il bene e il male, pagandone poi davanti a lui certamente le conseguenze. Ma tu non puoi pretendere che ti dica che tu sei bravo, come è già successo per altre situazioni. Vedete? Questo è quello che siamo. Quindi questi sono gli scandali, sono i peccati pubblici, che sono molto gravi perché inducono gli altri a peccare, perché fanno apparire come normale cosa che normale non è. Punto. Queste sono state cose studiate a tavolino, se si è studiato questo argomento, ma nello stesso mondo gay tutti quanti sanno che il cosiddetto coming out è stata una strategia studiata a tavolino. Coming out vuol dire venire fuori, cioè mentre fino a qualche tempo fa perdurava questa sorta di silenzio pudico, d'accordo? Cioè io ho questa situazione, benissimo, non voglio combatterla, voglio viverla, benissimo, mi faccio gli affari miei, punto. No, dobbiamo fare coming out, cioè coming out bisogna dire venire fuori, cioè mostrarsi così e obbligare le persone ad accettarci così, ma non si tratta di un'accettazione tranquilla, no? Cioè nel senso che di certo non è che perché sei così ti discrimino o t'ammazzo o faccio cose di nessun tipo, no, ma l'accettazione vuol dire che gli altri devono dirmi che faccio bene, che questo va bene, mi devono difendere, mi devono tutelare, mi devono dare dei diritti legislativi uguali a quelli delle persone cosiddette eterosessuali, eccetera, eccetera, e vogliono imporre la teoria dei generi, che i generi non sono due ma sono quattro o cinque, sapete, no, maschio, femmina, omosessuale maschio, omosessuale femmina e transessuale, secondo la teoria dei generi. Oh! E la timidezza a volte che si vede, perché purtroppo anche nel campo politico c'è più di qualcuno, oppure il politicamente corretto, perché queste organizzazioni di questi signori sono molto potenti e quindi hanno paura di contrariarle, stop, che vogliamo fare? E tutti quanti accodati, ma io la concedo con la buona fede di pensare che stanno facendo bene e che questa cosa corrisponda alla volontà di Dio. Io sinceramente più di qualche dubbio ce l'ho, poi mi sbaglierò, però poi vedremo nel corso della nostra analisi che è tanto sbagliato, insomma non credo che sia questa cosa. Allora, per concludere l'introduzione, dato che ci stiamo avviando verso la fine del... no, non abbiamo ancora un pochino di tempo, dobbiamo un attimo spendere due parole. Dopo aver visto quindi la gravità di questa materia intrinseca e il fatto che i peccati contro questa materia portano dritti all'inferno e che più gravi dei peccati sono gli scandali fatti in questa materia perché corrompono anche il prossimo, mi resta una parola da dire sull'aurea virtù della castità. L'aurea virtù della castità, che, ripeto, è sempre stata uno dei punti distintivi della persona cristiana. Allora, noi abbiamo assistito gli esempi evangelici. Gesù era, è stato ed è vergine, non soltanto casto. Adesso poi vedremo la differenza che c'è tra castità e verginità. Gesù era vergine. La Madonna è vergine prima, durante e dopo il parto. San Giuseppe e la Madonna non l'ha mai sfiorata, meno con mezzo dito. Chiaro? San Giuseppe, che a differenza della di Maria Santissima era un grande santo, ma era nato con la colpa d'origine, anche lui, ha vissuto una vita in perfetta continenza ed era vergine. Quindi vedete già i termini, no? Castità, verginità e continenza. Gli apostoli, alcuni di loro erano sposati, San Pietro era sposato, sappiamo dai Vangeli che c'aveva la suocera, ma dopo che Gesù li chiama, che cosa gli dicono i Vangeli? Noi abbiamo lasciato la nostra casa, le nostre famiglie per te, cosa ne avremo in cambio? Gesù cosa dice? Chi viene a me non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i campi, perfino la propria vita. Quindi anche le persone che erano sposate tra gli apostoli, incontrato Gesù, hanno lasciato, tra virgolette, le mogli, non nel senso che non le hanno misconosciute, ma hanno smesso di vivere insieme a loro e di vivere come i loro mariti, certamente conservando, presumo, io non lo so che cosa è successo esattamente, ma presumo che fino a quando sono stati sulla terra, in qualche modo abbiano avuto qualche contatto, qualche cosa, insomma, eccetera. No, è certo comunque che tra gli apostoli più di qualcuno fosse sposato, ma da dopo aver incontrato Gesù hanno smesso di vivere come marito e moglie. Ricordate che ci sono alcuni che nascono eunuchi così, altri che sono fatti eunuchi dagli uomini, altri che si fanno eunuchi per il regno dei cieli. Può capire, capisca. Ecco, quindi noi abbiamo questo punto di partenza e diciamo che questa virtù, specialmente nella forma estrema, che è quella della verginità, la verginità che è la rinuncia totale a qualsiasi forma di esercizio, anche lecita, della sessualità, e le forme di esercizio lecito della sessualità sono normate dalla virtù della castità, che adesso vedremo. Quindi la verginità come valore e come valore sublime e superiore è entrata nel mondo cristianesimo, perché Gesù e Maria erano vergini, sono vergini, tanto è vero che la Madonna è chiamata la Vergine per antonomasia nella Sacra Scrittura, la Vergine concepirà e partorirà da un figlio, l'angelo Gabriele fu mandato ad una Vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe, la Vergine si chiamava Maria. Quindi io mi ricordo fin da quando ero piccolo, dicevo, ma ci sarà motivo per cui questi sono rimasti vergini e si sono sposati? Non che il matrimonio sia cattivo, ovviamente, ma che la verginità sia migliore. Questo è quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Attenzione, non condannando i matrimoni santi e casti. Tant'è vero che Pio XI, il grande Pio XI, almeno per questa enciclica che io ho letto, che è stupenda, scrisse una enciclica che si chiamava Casti Connubi, cioè è genitivo, letteralmente significa del connubio casto. Cioè i matrimoni tra cristiani sono matrimoni casti, e vedremo subito, matrimoni casti non vuol dire che sono matrimoni in cui non ci sono rapporti sessuali, ma ci sono rapporti sessuali nella castità coniugale. Allora la castità, così facciamo subito un pochino di chiarezza, è quella virtù che regola l'esercizio della sessualità umana secondo la legge di Dio. Allora, le persone che scelgono di unirsi a Dio e di consacrare la vita a Lui, qualunque sia la forma, poi sacerdote, religioso, monaco, monaca, suora, missionario, quello che ti pare, sono chiamati a vivere possibilmente la verginità e dovrebbero tutti essere vergini, nel senso che siccome, adesso vedremo, prima del matrimonio non si può avere nessuna forma di contatto, se tu non ti sposi e ti consacri, se non fossimo tutti quanti una generazione, mi ci metto dentro pure io, di depravati, dovremmo tutti quanti consacrati essere vergini. Ed è un fiore all'occhiello. Recentemente mi hanno regalato un libro di un esorcista, morto da poco, stava in Toscana, che si chiama, mi ricordo il nome, Don Mario. Lui raccontava sempre che durante gli esorcismi il demonio era particolarmente infastidito dal fatto che questo sacerdote era vergine, non soltanto puro, tutti i sacerdoti devono essere puri, ma bisogna vedere cosa hanno fatto prima di diventare sacerdoti, capite? Essere vergini proprio in maniera assoluta, io vi posso assicurare ragazzi, perché io conosco più di qualcuno, dell'uno e dell'altro sesso, che ci sono ragazzi e ragazze che arrivano al matrimonio o alla consacrazione esattamente come Dio li ha fatti. Io la dico questa cosa qui, non è vero che è impossibile, che non hanno mai commesso un peccato impuro. Sapete cosa significa mai? Mai. Né in compagnia e né da soli. Mai. Non sanno cos'è. Non è vero che non ci stanno queste cose qui. Non fatevi mai ingannare da queste cose. Non è vero. Quindi la castità, diciamo che è la virtù principe, allora, che a seconda dello stato di vita in cui tu stai, regola l'esercizio della tua sessualità. Allora, sei un giovanotto in fase di discernimento, la castità ti dice, devi vivere la virtù della continenza, cioè devi contenere i tuoi impulsi sessuali e rinunciarne all'esercizio, almeno in forma momentanea. Se poi ti sposerai, comincerai ad esercitarlo con tua moglie o con tuo marito. Se ti consacrerai, sublimerai la castità nella verginità, che come vedremo non è una castrazione o una menomazione, è una sublimazione. Cioè il vergine, ragazzi, e la vergine non ha qualcosa di meno della persona che vergine non è, ma ha qualcosa di più. Teniamolo presente, perché vive una forma di vita superiore. La verginità ci mette a vivere, come dire, in una condizione superiore a quella umana, perché pur essendo noi tutti segnati dalla concupiscenza e quindi portati verso il basso, viviamo come gli angeli, quindi viviamo dentro la carne, come se la carne fosse un vestito che non sfiora la santità dell'anima. E questa è vita divina, questa qui. Qua voglio oggi a ridicolizzare quelli che sono vergini, non dobbiamo farci ridicolizzare. Ragazzini e ragazzine che vengono messi alla berlina perché se a 15 anni ancora non sono stati ad essere manca col primo che capita e che soffrono perché si pensano di essere coraggio, ma si devono vergognare quelli là che cominciano a fare a imitare gli animali col naso rosa che mangiano in maniera forsennata prima del tempo. Si devono vergognare loro, non si deve vergognare chi rimane vergine o chi è casto. Ecco. Se invece una persona si sposerà, continuerà a vivere la castità. Attenzione, perché non è che durante il matrimonio, poi lo vedremo, facciamo i bagordi, oppure c'è un uso sregolato, sfrenato, forsennato della sessualità. C'è un uso sereno, c'è un uso santo, c'è un uso anche gioioso e di donazione reciproca, bello, vissuto in un certo modo, ma anche all'interno della legge morale, lo vedremo quando tratteremo il tema dell'apertura alla vita, dei figli, eccetera. Quindi, siccome su questa materia si sente forte il peso della colpa d'origine, in una forma che si chiama concupiscenza, che esiste, questa virtù va vissuta sempre, quindi va sempre tenuta sotto controllo. Questo è quello che il cristianesimo ha da sempre insegnato, da sempre, comprese poi tutte quante le fughe dalle occasioni, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci possono e non ci devono sembrare strani queste cose qui, non ci possono e non ci devono sembrare strani. Allora, riassumendo, questa castità è la capacità di vivere la sessualità in modo autenticamente umano e cristiano, integrandola all'interno della totalità della persona umana, che non è solo corpo, ma anche emotività, affettività e spiritualità, e nel suo essere intrinsecamente linguaggio di amore, anzitutto, e di amore atto a trasmettere la vita. Ad essere casti si impara fin da quando si è piccolini, perché una buona educazione aiuta tanto l'esercizio della castità. E per custodire questa santa virtù, bisogna utilizzare tre mezzi, questi sono gli insegnamenti dei santi. Primo, la volontà ferma di non peccare. Noi su questo siamo deboli. Io racconto sempre San Francesco d'Assisi, che oggi va tanto di moda, ecco, soltanto per alcune cose che fanno comodo, che vengono strumentalizzate oppure addirittura unilateralizzate o stravolte, ecco. Per ben due volte, ci raccontano le fonti, è stato gravissimamente tentato di impurità, gravissimamente, ma prima di lui lo fu San Benedetto. Non lontano dalle mie parti, a Subiaco, c'è il luogo dove San Benedetto è stato in ritiro per tanti anni prima di scegliere la vita monastica, ha fondato il proto monastero poi dei Benedettini. Dentro il proto monastero c'è un roseto, che una volta era un roveto, dove il santo si gettò una volta in preda a tentazioni sessuali. Perché quello è santo, ma quello è un maschio. Ecco. E i maschi a volte sentono gli stimoli della carne anche senza che ci facciano nessun tipo di concorso. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, se non ricordo male, parla dello stimulus carnis, la spina nella carne. San Paolo, e si vergogna perché dice: ma come, io sono stato fino al terzo cielo. Voi sapete che San Paolo aveva ricevuto dei doni mistici probabilmente da Nostro Signore. Io sono stato rapito, ho ascoltato i segreti divini, sono in un altro mondo e devo ancora sentire queste cose. E prega il Signore, ma ti prego, liberami da questa da questa immondizia, che non vorrei neanche sentirle. Il Signore ha detto: no, non ti libero neanche per niente, ti basta la mia grazia. Tu combatti e la mia potenza si manifesterà perfettamente nella tua debolezza. Non ce la toglie questa cosa, nostro Signore. Non pensate che una persona che sia consacrata, come dire, non avverte più in nessuna forma e in nessun modo la vita sensibile, pulsionale. Non è vero questo qui. È vero che se vuole, se combatte, non commetterà mai, e ripeto mai, nessun peccato su questa materia, mai. Però un conto è la volontà, che è unita alla volontà di Dio. Un conto è la natura, che fa il suo corso, ragazzi. Che non va secondato, che va contrastato, ma che non può essere spento, inibito. Uno dovrebbe fare una cosa molto semplice, che non si può fare, no? Dovrebbe fare levirazione, se è un maschietto. Scusate la mia ignoranza, non so cosa dovrebbe fare una femminuccia per non sentire alcuni stimoli, perdonatemi l'ignoranza, forse c'è qualcosa anche per loro. Ma questo è proibito, non si può fare. Capite? Anche se sarebbe una cosa molto, molto, molto, molto bella, ma fino a quando siamo in questo mondo, questa è materia di lotta. Allora, per lottare ci vuole una cosa ferma: volontà di non peccare. Per quanto tu possa essere tentato, non puoi farlo. L'episodio di San Benedetto si è ripetuto in San Francesco, perché il Roveto sta pure alla Porziuncola. E un'altra volta è successo a San Francesco, quando era sul Monte della Verna, d'inverno, con la neve, quindi lui stava col saio e scalzo, quindi quando uno si muore di freddo c'è altro a cui pensare, e nonostante quello sentiva lo stimolo, e tanto è vero che si tolse anche il saio e si rotolò nudo per farsi passare i bollenti spiriti in mezzo alla neve. Questo è San Francesco. Vedete cosa vuol dire la volontà ferma di non peccare? Vedete gli atti eroici? Vedete anche Santa Maria Goretti? A volte bisogna commettere degli atti eroici, perché abbiamo la natura che ci porta in basso. La seconda cosa è la fuga dalle occasioni: non mi posso mettere in un'occasione perpetua di peccato. Cioè, se tu per esempio c'hai il fidanzato o la fidanzata che vive a casa da solo o da sola, come è successo più di qualche volta, no? E dice: vabbè, no, vogliamo, vado a pranzo dal mio fidanzato, vado a pranzo dalla mia fidanzata. Dico: vai, che significa? Se quello sta a casa da solo e tu sali e pranzi con me. Cioè, lo sapete, no? Cioè, come va a finire quel pranzo lì? Non è che uno non può stare a pranzo insieme, dico, vatta a mangiare una pizza al ristorante. Perché, cioè, dentro casa, da soli, a casa sua, che non è che dici adesso torna papà o torna mamma, ma, cioè, che capite? Quella è un'occasione prossima e grave di peccato. Allora, se tu vuoi mantenere la castità e l'osservanza della legge di Dio, non puoi essere così imprudente, perché dopo non puoi tu andare a sfidare la tua debolezza, perché se ti metti nel pericolo cadrai, dicono i libri sapienziali. Quindi devi fare questa piccola rinuncia, devi stare attento, devi stare. Ho fatto il primo esempio che mi viene in mente, no? La stessa cosa vale per una coppia di fidanzatini: devono aiutarsi a vivere la castità, a volte impedendosi di concedersi alcune cose che potrebbero metterle in condizione di farli peccare, eccetera. E la terza cosa è la preghiera, perché su questo argomento siamo deboli, specialmente la preghiera mariana. La Madonna è la sempre vergine e ottiene a chiunque gliela chiede la virtù della castità, proporzionale e, come dire, adatta al suo stato di vita: castità matrimoniale se si è sposati, continenza se si è prima del matrimonio, verginità se si è consacrati. Quindi questa virtù unica, e concludiamo, ha espressioni e modalità di esercizio differenti. Quindi abbiamo visto la verginità consacrata, abbiamo visto le persone che sono ancora celibi o nubili, quindi in ricerca, o le persone che sono fidanzate e sposate. Quindi la verginità di un consacrato era una rinuncia, attenzione, soltanto all'esercizio fisico della sessualità, E viene però sublimato in un amore più grande, che ha Dio come termine esclusivo, cioè io non mi leggo a nessun essere umano, perché io mi leggo a Dio totalmente e sommamente amato, e l'amore esclusivo con Dio apre il mio cuore, dilata il mio cuore ad accogliere tutti, quindi abbraccia tutti gli uomini, senza legarsi a nessuno, ma includendo tutti. Quindi vedete, esclusivo con Dio e inclusivo con gli altri. Ora, celibi e nubili, così come i fidanzati, devono vivere la castità nella dimensione della continenza, che ha però come motivo l'attesa di scoprire la propria vocazione o di trovare l'uomo o la donna della propria vita. Il matrimonio, come vedremo più avanti, è una vocazione, scritta nel cielo, se tale è. Oh, quando si è fidanzati, lo stesso si può vivere, si deve vivere la continenza. Certamente quando c'è un fidanzamento conclamato e ad età abbastanza adulta, si possono vivere, diciamo così, delle forme molto limitate di esercizio della sessualità umana, ma sessualità umana bisognerebbe metterci le virgolette, ecco, perché non si tratta di contatti strettamente sessuali, ma si tratta semplicemente di alcuni gesti affettivi, che certamente non sono indifferenti, perché anche stringere, come dire, con amore una mano può essere qualche cosa che, come dire, muove qualcosa dentro di noi, ma quando è fatto durante un fidanzamento con una persona che tu vuoi bene, con amore e per amore, senza raggiungere mai, lo vedremo, dei veri e propri contatti sessuali, ripeto, non col primo che trovi e non quando sei un ragazzino, ma ad una certa età, certamente, anzi, vedremo quando poi lo affronteremo, il fidanzamento è proprio la palestra dove si impara a scambiarsi l'affetto, quindi rinunciando a tanti atti, che sono poi alcuni molto molto fisici e molto materiali e possono diventare anche poco umani se vissuti in un certo modo, si impara quindi a creare, diciamo, quell'ambiente bello di amore affettuoso dentro cui quegli atti avranno significato di donazione autentica e non semplicemente di godimento di un piacere basso e, come dire, per certi aspetti in qualche modo simile a quello degli animali bruti, insomma, con cui condividiamo questa cosa, perché comunque la riproduzione sessuata è comune con tutti gli altri mammiferi. Scusate. La castità coniugale, infine, implica la fedeltà reciproca, l'indissolubilità del matrimonio, l'apertura alla vita nel compimento degli atti coniugali e l'uso ordinato e lecito della sessualità umana, tutte cose su cui torneremo. Il vizio della lussuria, invece, che si oppone direttamente alla castità, si esplica nei seguenti atti: uso della sessualità al di fuori della relazione, al fine di trarne piacere fisico, unione sessuale tra uomo e donna al di fuori del matrimonio, in forma parziale o totale, adulterio, prostituzione, stupro, incesto e tante altre cose che poi vedremo nel corso di questa trattazione. Ricordiamo che la materia del sesto comandamento è in se stessa sempre intrinsecamente grave, il che significa che tutti i peccati impuri compiuti con piena avvertenza e deliberato consenso sono sempre veri e propri peccati mortali. Dalla prossima volta cominceremo ad approfondire nel dettaglio, ecco, ciascuno dei punti accennati in questa lunga introduzione, che ha avuto come compito quello appunto di prepararci allo studio, diciamo così, all'indagine, all'approfondimento della materia. Vi do appuntamento, se volete, la prossima settimana. Vi benedico e vi saluto a tutti. Ave Maria.